Incontri di Gianfranco Fabi. Mi sento solo in mezzo alla gente, osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente. Buongiorno, con queste note di Eugenio Finardi iniziamo il nostro incontro di oggi. Buona domenica, buon pomeriggio a tutti, buona domenica a Francesco Belletti, buona domenica. Buongiorno a tutti. Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, ha scelto questo brano di Eugenio Finardi, Le ragazze di Osaka, per introdurre la nostra ormai tradizionale conversazione della domenica. Che cosa le ricorda? Ma il ritornello, più che altro, Non voglio essere solo mai, che è un po' la descrizione di quello che tutti noi abbiamo nel cuore, cioè la ricerca di una compagna, di un compagno per la vita, di amicizie vere, l'idea che l'uomo da solo non si salva, che l'uomo da solo vive male. Quindi, e poi anche la poesia del linguaggio musicale di Finardi, che ha avuto una vita spericolata anche lui. E però riesce a raccontare la delicatezza e la bellezza della vita. Quindi... Sì, sono tutti racconti queste canzoni, sì, di Finardi, racconti molto vicini alla sensibilità delle persone. Possiamo dire che questa canzone potrà diventare l'inno del Forum delle Famiglie? Ma del Forum no, ma di ogni famiglia sì, perché in fondo fare famiglia significa combattere la solitudine, e forse anche l'isolamento e la solitudine della famiglia è il suo principale nemico. Allora vediamo un po' che cos'è questo Forum delle Famiglie. Ma l'anno prossimo compie 18 anni, dal 93, sono 50 associazioni familiari che si occupano di tutto, dall'adozione all'affido al lavoro. C'è un'associazione di casalinghe, un'associazione di persone vedove, cioè attorno alla famiglia le persone si mettono insieme, e il forum vuole dare voce a questo grande patrimonio del nostro paese che è la famiglia, rappresentandolo nella politica, nel discorso pubblico, nei media. Quindi è un compito di dar voce a famiglie che spesso stanno nel silenzio. Poi la famiglia viene raccontata e parla solo nelle situazioni estreme, o i gesti eroici di accoglienza o i gesti tragici di violenza, e invece c'è questo milioni e milioni di famiglie che vivono la quotidianità, la normale fatica della vita quotidiana. Ecco, la normalità della vita quotidiana che trova in questo forum una rappresentanza, una lobby, un sindacato, o nessuna di queste cose, o tutte queste cose insieme? Beh, tutte insieme, perché in fondo abbiamo due fronti da tenere in piedi. Uno è quello degli interlocutori, parlare con la politica, con i sindaci dei comuni, ma anche col governo, ma anche con i sindacati, con gli imprenditori, e dall'altro invece chiamare le famiglie a una responsabilità sociale, a occuparsi non solo del proprio giardino ma anche del giardino che c'è fuori di casa, della strada, del bene comune. Questo le famiglie lo facevano più facilmente quando per esempio c'erano comunità di villaggio, reti familiari più forti. Oggi alla famiglia bisogna anche sfidarla e dirle: quando tu fai famiglia costruisci anche cittadini e costruisci anche il nostro paese. Come si diventa presidenti del Forum delle Famiglie? Ma devo dire che c'è stato un lungo apprendistato, perché tra presenza di lavoro, io sono anche direttore di un centro di ricerca sulla famiglia che da subito ha aderito al forum, perché vedeva dal punto di vista della lettura della società italiana la presenza delle associazioni come una novità nel nostro paese, e oggi in effetti il forum è una piccola grande novità. E quindi la frequentazione, il lavoro e la condivisione sono uno dei principali conoscitori del forum, che è anche una battaglia ideale che ma condivido. Quindi lei è più un sociologo, più un politico, più un... No, sicuramente sono più un professionista prestato all'associazionismo. Tra l'altro questa mia esperienza, che ormai dura da più di un anno, da luglio dell'anno scorso, mi dice che c'è proprio un problema anche di competenza e di sostegno al volontariato, al terzo settore, alle associazioni di fronte alla politica, i media. Cioè troppo spesso chi fa associazionismo poi finisce dentro la politica e si perde e si depaupera in sostanza la capacità delle nostre associazioni di essere interlocutori forti, capaci di argomentare. E quindi insomma l'idea è quella che la nostra società sarà più democratica se ci saranno più associazioni e più voce alle associazioni. Ecco, torneremo poi su questa associazione, però vorrei fare ancora un passo indietro. Francesco Belletti, presidente del Forum delle Famiglie, da piccolo cosa avrebbe voluto fare da grande? Ma dunque, due cose certe che non sono mai riuscito a fare, cioè l'astronauta e il calciatore. due passioni penso comuni a volte penso esatto. Da piccoli e poi tutto meno che il lavoro che mi è capitato addosso. Io ho fatto scienze politiche e alla fine di scienze politiche con una tesi in storia americana su Roosevelt, quindi mi è capitato di correggere questionari in un piccolo lavoro subito prima di laurearmi, e da lì sono partito con una carriera da sociologo che è diventata conquistata più sul campo che sul curriculum di studio. Credo che sia anche un'indicazione per tanti, cioè occorre anche essere disponibili a cambiare progetto e cogliere le opportunità, a seguire opportunità che quando mi si sono presentate erano molto deboli, però insomma ci sono stato, ho avuto dei buoni maestri, cosa che credo che quali sono stati gli incontri che hanno segnato un po' la sua esperienza? Ma diciamo che sul lavoro ho trovato un paio di persone che avevano voglia di raccontarsi e di costruire una squadra, quindi lavorando imparavo, me ne sono accorto ovviamente dopo 10 anni, quando avevo questa responsabilità del lavorare con dei giovani e di tentare di insegnargli qualcosa. Però questa è un'altra delle questioni che fanno la differenza, cioè trovare persone che perdono del tempo per insegnarti proprio sullo specifico professionale, oltre che sulla vita. Poi un po' di appartenenza ecclesiale, certamente l'esperienza nella Chiesa, ma anche, e poi la famiglia, ovviamente. Perché Francesco Belletti è anche padre di famiglia. Ma sì, prima di tutto sono figlio di famiglia, cioè prima di tutto devo riconoscere che nel bene e nel male i miei genitori mi hanno costruito. E poi invece l'incontro con la moglie, 27 anni di matrimonio, 3 figli, che è stata proprio una compagna, una con cui discutiamo spesso, litighiamo spesso, però è come un viaggio insieme, un progetto condiviso, quindi mai direi mia moglie è un peso, mai direi è stato uno sbaglio sposarsi. Per me è stata proprio un progetto, una sfida comune che dopo 27 anni è come se fosse ancora l'inizio, nel senso che niente è dato per scontato, però certo mi rendo conto che non avere una continuità, una stabilità di questo tipo è un punto difficile. Una moglie, 3 figli con la stessa moglie, come si dice sì, ogni sì, tanto. Esatto, questo, beh, 3 figli, 25, 22 e 14 anni, quindi un Filippo, una Cecilia, una Susanna, che fanno cose molto diverse, sono tipi molto diversi, certamente sono proprio diversi da come me li ho immaginati io. Che però penso abbiano un'idea di famiglia molto costruita, molto fondata su dei valori. Ma sì, diciamo che sembra che ci si trovino bene in casa, ma questo sta diventando un piccolo problema perché mi piacerebbe vederli volare via. Poi, anche perché se invece ci fossero da famiglia un po' sfasciata non ci potrebbe essere un presidente del forum delle famiglie divorziato. Credo che sarebbe difficile come argomentazione, però devo dire che poi i miei figli costruiranno storie loro. Certamente. Ed è evidente che quello che costruiamo noi è in mano una libertà. Invece la famiglia in senso un po' generale, la famiglia italiana, qualche problema ce l'ha? Sì, diciamo che l'abbiamo maltrattata per decenni, l'abbiamo trattata come i nostri beni culturali, i nostri beni ambientali, senza manutenzione, e adesso in questi ultimi 15-20 anni il gioco si è fatto veramente duro, le nostre famiglie sono sfibrate perché hanno tantissimi carichi, responsabilità, tentano di tenere botta, siamo il paese che ha il minor tasso di istituzionalizzazione, teniamo dietro i nostri anziani, ci siamo addirittura inventate le badanti come sistema di welfare familiare per gli anziani, abbiamo il più alto tasso di domiciliarità per le persone disabili, quindi la nostra famiglia tende a tenere botta un po' su tutto, fa da cassa integrazione per i giovani. E qui ormai la velocità del cambiamento, le sfide della società globalizzata sono eccedenti le capacità della famiglia di resistere. Cioè, è un pilastro silenzioso della società. Sì, e appunto per quello il forum doveva dar voce a questo grande patrimonio, perché non riusciva più a dar voce, schiacciata da pesi sempre crescenti, da sfide sempre più complicate. Si è anche persa un po' di trasmissione tra le generazioni, cioè è difficile oggi imparare dai propri genitori a lavorare, a scegliere come vivere, e quindi qui c'è proprio un problema di rilancio delle nuove generazioni e del familiare. Quindi la famiglia tiene botta in Italia molto più che in altri paesi, ma ha bisogno di un reale sguardo benevolo dal sociale. Ecco, lei come centro per la famiglia cura ogni anno, mi sembra, un sì, rapporto. Sì, ogni 2 anni, ogni perché 2 anni. Effettivamente è un po' difficile gestire la scadenza annuale, ma il rapporto del CISV dall'89 ad oggi ha seguito alcune questioni che sono decisive, non so, il rapporto uomo-donna, la solidarietà tra le generazioni, magari anche con una grande anticipazione. Grazie. Cos'è cambiato soprattutto dal primo rapporto a quello di quest'anno, dell'anno scorso? E dal primo rapporto secondo me è venuto proprio fuori questa resistenza ma sfibrata. Cioè dall'89, noi nell'89 avevamo parlato di famiglia autopoietica, cioè di una famiglia che si faceva da sé, che teneva il proprio destino nelle proprie mani, non necessariamente una famiglia chiusa, ma che voleva rispondere alle sfide che aveva. Oggi questa famiglia esplode, non ce la fa ad avere questo stesso passaggio. Quindi questi sono stati i 20 anni in cui le risorse della famiglia sono state messe a dura prova. Quindi grandi cambiamenti sociali a cui la famiglia ha dovuto far fronte in qualche modo, e in qualche modo certe volte non è riuscita complessivamente. Sì, diciamo che i due codici del familiare oggi importanti sono la capacità di solidarietà, cioè l'aiuto reciproco, e anche la tenuta. Sulla solidarietà la famiglia cerca di resistere, sulla tenuta per esempio è ovvio che ci sono molte più separazioni, molte più difficoltà nel tenere insieme, però senza queste evidentemente è una situazione di crisi. Incontri. La sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente, ma no, non voglio essere solo, no, non voglio essere. Voglio essere solo me. Con queste note di Eugenio Finardi, Le ragazze di Osaka, il ritornello Non voglio essere solo, riprendiamo il nostro confronto, il nostro incontro con Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Abbiamo visto nella prima parte la sua esperienza, la sua attenzione e anche la sua analisi sull'attuale difficile situazione della famiglia, e abbiamo promesso di parlare di quello che si può fare, quello che si può fare. Tra l'altro Francesco Belletti, mi pare che proprio domani si apra un'iniziativa particolarmente significativa. Beh, domani il governo inaugura la conferenza nazionale sulla famiglia, che è un appuntamento che aspettavamo da 3 anni. Ce n'era stato uno a Firenze nel 2007 col ministro Bindi, poi il governo è caduto, quindi la massa di informazioni, proposte, progetti, impegni che avevamo raccolto è andata perduta. Adesso c'è un'altra opportunità, in un momento politico nuovamente difficile e incerto, però per noi è una grande occasione di poter riportare al centro del discorso politico italiano la famiglia come non l'ultima riga della lista del bilancio dello Stato, ma come una priorità vera. Allora ricordiamo, come fanno tutti i buoni giornalisti, questa conferenza sulle famiglie, come, quando, dove, perché. Allora a Milano dall'8 al 10 lunedì, martedì e mercoledì, alla Fiera Vecchia di Milano, quindi Piazzale Gattamelata, ed è un'occasione in cui si scriverà un piano per le politiche familiari per il nostro paese. Quindi è un'iniziativa essenzialmente governativa. È istituzionale. Siamo presenti anche noi, le associazioni saranno nei 10 gruppi di lavoro, abbiamo costruito un documento di 40 pagine con una mappa analitica di priorità che vanno dal piano per la non autosufficienza fino al potenziamento dei nidi, dal sostegno alla donna che lavora al riconoscimento del lavoro domestico non retribuito. Insomma, le partite sono tante ed è l'occasione per poter fare un'agenda di priorità. Ecco, vediamone qualcuna di queste priorità per la famiglia, la priorità delle priorità. La priorità delle priorità è la riforma del fisco. Oggi il nostro paese è ingiusto, non è non protettivo, è ingiusto verso le famiglie con figli. Noi abbiamo lanciato 2 mesi fa una proposta nuova che si chiama Fattore Famiglia, che proprio con la novità della parola ha trovato molti riscontri nei sindacati, nei vari partiti politici. C'è bisogno di uno sguardo nuovo, e d'altra parte lo stesso ministro Tremonti ha aperto un tavolo di confronto a cui ha invitato anche il forum, e devo dargliene atto pubblicamente perché era un po' di anni che non ci sentivano più, e perché è ovvio che oggi la questione fisco è una priorità del sistema paese. Ecco, si è parlato molto di quoziente familiare. Noi come mai si è passati a questa nuova formula? Ma dunque, il quoziente è stato spesso attaccato perché si sosteneva che privilegiava redditi più alti, perché era un meccanismo meccanico, insomma un meccanismo troppo aritmetico, che quindi dava benefici più alti alle famiglie con più reddito. Noi il fattore famiglia l'abbiamo costruito proprio per rispondere a queste criticità, e crediamo di aver trovato un buon punto di equilibrio. Ecco, qual è il punto forte di questa proposta? È una no tax area familiare commisurata al numero di persone che vivono in famiglia. Cioè chi ha più figli paga meno tasse, sì, fino a un certo livello. Diciamo che noi crediamo che l'articolo 53 della Costituzione, che dice che ognuno deve pagare tasse secondo la sua capacità contributiva, debba dire: se tu devi dedicare una parte del tuo reddito alla cura, all'educazione, al buon allevamento dei tuoi figli, quei soldi lì non sono spesi in generi di consumo, quindi non devono essere tassati, ma devono essere considerati beni sostenibili. orientamento. Abbiamo dei pronunciamenti della Corte Costituzionale tedesca che affermano e sostengono con grande chiarezza questo criterio. Noi invece abbiamo un differenziale tra famiglia con figli e famiglia senza figli a parità di reddito che è ridicolo. E già dal 90 gli assegni al nucleo familiare solo per un terzo venivano restituiti ai lavoratori sotto questa forma. Per il resto andavano ad altre partite del sistema previdenziale. Questo dice che la famiglia era invisibile al sistema politico. Ecco, è anche per questo che le famiglie italiane sono quelle che hanno il minor numero di figli, che le donne italiane sono quelle che hanno il tasso più basso di natalità. Sì, diciamo che il fattore economico è un fattore incidente in modo molto forte, però non arriva al 50%. La scelta è anche quella culturale, valoriale, ma è anche l'idea del figlio che oggi è tradotto in bene di consumo, alla pari di è una scelta di consumo come di qualunque altro bene. Questo credo che il messaggio, quello di cui ha bisogno la famiglia, appunto al di là del fisco, della conciliazione, di sostegni diretti, è poi l'idea che fare famiglia è un valore per l'intera società. Questo chiediamo, che questo è importante. Ecco, questo è importante, però la politica, appunto, dicevamo anche all'inizio, è stata un po' ritrosa, non ha avuto l'accortezza di pensare alla famiglia come un elemento centrale della società. Come mai questa politica ha pensato alla persona, una politica molto individualista? Ma dunque, l'individualismo è frutto anche di una mercantilizzazione un po' di tutto, quindi è un po' frutto della società dei consumi. Le politiche familiari sono state intrappolate anche da un contenzioso ideologico nei decenni scorsi, cioè chi parlava di politiche familiari veniva accusato di fascismo, di politiche di potenza demografica, e la stessa sinistra nel paese faceva fatica a vedere la famiglia come un luogo positivo, la considerava un luogo di conservazione, di resistenza al cambiamento, di oppressione dell'uomo sulla donna, dei genitori sui figli. E oggi invece è evidente che la famiglia è un generatore di bene comune, è un capitale sociale. Quindi le resistenze ideologiche, una deriva mercantile, hanno reso la famiglia un discorso pubblico poco frequentato. Oggi tutti parlano di famiglia, ma a questo punto vorremmo passare dalle parole ai fatti. Ecco, dalle parole ai fatti, però c'è sempre poi il problema politico, che è quello che le risorse sono poche. Allora, le risorse sono poche, bisogna superare anche questo problema, dimostrando che il problema è anche quello di essere più attenti anche a livello politico generale, politico sociale, non solo dando dei soldi. Certo, in più le risorse appostate sulla famiglia non sono costi ma sono investimenti. Questo sembra retorica, e credo che se dicessi questa parola a Tremonti o a Padova Schioppa, perché è una cosa molto bipartisan questa, loro direbbero subito: sì, però i conti devono quadrare. Però io chiederei di fare qualche conto: se restituissimo capacità di acquisto alle famiglie con figli, quanti posti di lavoro ci sarebbero, quanto il mercato metterebbero in movimento, quanto sarebbe un volano per la ripresa dei consumi e per il sistema paese. Quindi certo, si tratta di puntare, di avere fiducia sulle famiglie. State già preparando il rapporto sulla famiglia? Quando uscirà il prossimo? È la fine 2011, quindi siamo un po' in anticipo. Quindi ancora non presto. Abbiamo ancora un'anticipazione neanche sul tema. Quello dell'anno scorso era sul costo dei figli, e quindi eravamo proprio su questa priorità. Credo che un'emergenza forte del familiare oggi nel paese sia la dimensione della società interculturale e delle famiglie migranti. Su questo mi piacerebbe fare un rapporto, anche perché potremmo uscire dall'ideologia e verificare che la famiglia è un canale di integrazione sia per le famiglie native, certo, che per le famiglie che arrivano da altri paesi, sia per quelle che si formano magari a livello appunto interrazziale, certo, coppie miste, ma anche la seconda generazione, tutto il tema della cittadinanza per i diciottenni, che gente che parla il dialetto molto meglio di noi e che a 18 anni si trova disorientata da questa. Quindi il dibattito è forte, l'ideologia è molto pesante, è quello che è mancato molto alla famiglia nei decenni scorsi. Uno sguardo sereno, non ideologico. Ecco, uno sguardo forse magari naturale, più semplice, più vicino alla realtà, perché andando poi nella realtà si può scoprire che la famiglia è ancora un valore molto sentito. Poi la rappresentazione politica, la rappresentazione sociale rischia di essere anche un po' distorcente rispetto alla realtà. Sì, c'è anche proprio un problema di traduzione mediatica, perché il discorso sulla famiglia letto sui giornali è spesso su casi eclatanti e non difficile raccontare la normalità, la foresta che cresce piuttosto che, certo, l'albero che cade. C'è anche da dire che bisogna anche guardare in faccia le fragilità e le difficoltà delle famiglie concretamente. Non vorrei fare ideologia dal versante opposto, cioè qui non si tratta di dire la famiglia funziona sempre e comunque, è sempre un valore anche a prescindere, perché abbiamo pagine e pagine di giornali sui delitti in famiglia, sulle fragilità, dobbiamo riconoscere che se non passiamo dalla famiglia, nessuna società si è mai trovato un altro luogo di generazione di coesione sociale. Dove si educano i cittadini? Dove si educa il bene comune? A custodire le cose che appartengono a tutti? Certamente in famiglia. Poi si impara anche a scuola, nel sociale, nel volontariato, ma senza una famiglia che tiene e che tiene una responsabilità sul pubblico, non andiamo da nessuna parte. Ecco, siamo in conclusione. Abbiamo detto la priorità delle priorità è il fisco. Altri due passaggi da fare per cercare di rimettere appunto la famiglia al centro della società. Due assolute priorità sono le famiglie giovani. Oggi fare famiglia è una mission impossible, perché già essere giovani in questo paese è difficile. In più, avere idea di mettere su casa e famiglia è tremendo. Problemi di lavoro, problemi di casa, problemi di percorsi previdenziali, tutti temi che si sa che sono reali. Allora, una priorità su questa generazione nuova, e l'altra questione le famiglie con pesi assistenziali, cioè dobbiamo proprio sostenere le famiglie che hanno disabili, che hanno anziani in carico, perché questo è un altro luogo su cui il nostro welfare non ce la farà più. O troviamo una collaborazione con le famiglie oppure salterà tutto. Ecco, nella prospettiva che l'investimento sulla famiglia è un investimento produttivo in tempi brevi. La famiglia rende dal punto di vista economico. Grazie a Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Buon lavoro da domani con questa grande conferenza nazionale, conferenza istituzionale governativa sulla famiglia. Speriamo che nasca qualcosa. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Roberto Scartritti in regia, Dita Padizza in redazione. L'appuntamento è per domenica prossima. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica e buon pomeriggio.